Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City, si chiama HiCare ed è un progetto lanciato dal Dipartimento di Chimica dell'Università di Torino, finanziato dal programma europeo Horizon 2020 con circa 2 milioni di euro, con cui si tenterà di mettere a punto un sistema di immagazzinamento dell'idrogeno all'interno di polveri metalliche. L'idrogeno, anche se ne abbiamo parlato tante volte qui a Smart City, è come noto il principale candidato a svolgere il ruolo di riserva di energia in un sistema energetico fortemente basato su fonti rinnovabili quali sole e vento, che sono sì abbondanti e a impatto zero, ma che hanno il difetto di non essere programmabili, insomma vanno e vengono quando vogliono, mentre noi vogliamo poter contare sulla fornitura di energia. Ecco dunque la necessità di immagazzinare energia da fonti rinnovabili quando viene prodotta in eccesso, così da averla a disposizione quando invece viene prodotta in difetto. Ovviamente direte voi, ci sono le batterie, le quali però per molteplici ragioni non possiamo entrare adesso nei dettagli, sono perfette per applicazioni diciamo di medio-breve periodo, il giorno per la notte per esempio, mentre è abbastanza irrealistico pensare che possano rispondere alla necessità di immagazzinare l'energia per esempio l'estate per l'inverno. Qui il ricorso ad altre forme di immagazzinamento è d'obbligo e l'idrogeno, che può essere prodotto a partire dall'acqua, che una volta bruciato in una cella combustibile per generare elettricità produce ancora acqua, sarebbe senz'altro l'ideale. Ma stoccare grandi quantità di questa molecola piccola e sfuggente in modo sicuro, efficiente e senza occupare troppo spazio è una sfida. E qui veniamo al nostro ospite. Diamo il benvenuto al professor Marcello Baricco, docente di Scienze e Tecnologie dei Materiali all'Università di Torino, che è anche il coordinatore scientifico del progetto HiCare. Buonasera Baricco. Buonasera a lei e buonasera a tutti gli ascoltatori. Dunque Baricco, ci ricordi quali sono le alternative in fatto di immagazzinamento di idrogeno e relativi insomma pro e contro? Bene, come lei giustamente ha detto, l'idrogeno diciamo in condizioni ambientali è un gas e quindi il modo migliore per immagazzinare l'idrogeno è metterlo dentro una bombola come facciamo con il gas metano, insomma come tutti i gas che conosciamo. Però naturalmente per immagazzinarne tanto dobbiamo andare ad elevatissime pressioni, parliamo di centinaia di atmosfere. E naturalmente questo pone dei problemi di costi di compressione, quindi alternative possibili per immagazzinare l'idrogeno è quello invece di ridurlo allo stato liquido, solo che anche qui ci sono dei problemi perché occorre innanzitutto raffreddarlo a temperature molto basse, parliamo di meno 250 gradi centigradi, e in aggiunta poi una volta che l'abbiamo ridotto allo stato liquido dobbiamo controllare che lui non evapori poi andando via e risultando sciupando. E quindi insomma questo progetto vuole esplorare una terza via, se vogliamo, che è quella che lei già citava, cioè dell'utilizzo di materiali metallici, in questo caso diciamo sotto forma di polvere, che proprio nell'interazione con l'idrogeno sono in grado di formare un composto che si chiama idruro, che è in grado proprio di attrarre, diciamo di contenere al suo interno elevate quantità di idrogeno in spazi e volumi relativamente ridotti. Ecco, alcuni metalli, poi a seconda del tipo di metallo, ma si comportano come delle spugne che assorbono l'idrogeno nel loro reticolo cristallino. Ecco, quali sono le problematiche a questo punto relative a questo tipo di accumulo, quindi che sfrutta delle polveri metalliche? Beh, innanzitutto abbiamo bisogno di polveri metalliche disponibili a costi accettabili. E poi il problema degli idruri è che a differenza di quanto abbiamo in una tipica bombola di gas in cui basta aprire un rubinetto per far uscire il gas, qui la cosa è più complicata. Quando noi carichiamo la bombola contenente gli idruri, la reazione di interazione dell'idrogeno con il metallo genera calore che deve essere in qualche modo dissipato, e al contrario quando lo vogliamo poi svuotare, cioè far riuscire l'idrogeno da questo idruro metallico, ecco che dobbiamo fornire del calore che ovviamente deve essere preso dal all'esterno. Questo per chi si occupa di questa tecnologia è spesso visto come una criticità, proprio perché sono coinvolti degli aspetti di tipo energetico significativo. Insomma, un po' di energia se ne va nel raffredda e riscalda, no, questo esatto. Blocco di polveri metalliche, mettiamola così. E qui veniamo alla soluzione che voi proponete. Ecco, certamente la sfida che diciamo il progetto europeo vuole, diciamo la sfida che è stata lanciata e la risposta che il nostro progetto vuole dare è proprio quello di incrementare l'efficienza dal punto di vista energetico di questo processo di carica e scarica. E se vogliamo la soluzione è banale, semplicemente quella di, anziché sciupare questo calore che viene prodotto durante la fase di carica, cercare in qualche modo di trattenerlo, di accumularlo per poterlo poi sfruttare quando è il momento poi di scaricare. Molto chiaro. E come farete? Ecco, l'idea è, se vogliamo banale, è quella di associare, di affiancare a questo serbatoio che immagazzina l'idrogeno un altro serbatoio che immagazzina il calore, certo, attraverso dei materiali a cambiamento di fase. E quindi nel momento in cui si sviluppa questo calore, il serbatoio a fianco lo accumula semplicemente facendo una liquefazione, diciamo, no? Sì, esatto, una trasformazione di fase dallo stato solido allo stato liquido, e poi diciamo quando c'è bisogno di riavere indietro questo calore, semplicemente questo materiale passando dallo stato liquido allo stato solido, solidificandosi, ecco che è in grado di restituire questo calore. E allora il sistema diventa chiuso e non si ha più diciamo una dispersione di energia, e il sistema nel suo complesso diventa più efficiente. E allora ci ricordi dove si farà, dove si metterà in campo questa tecnologia che verrà sperimentata concretamente, e chi saranno gli altri protagonisti? Bene, l'idea è naturalmente di realizzare poi un sistema dimostratore. L'obiettivo è di riuscire a immagazzinare 50 kg di idrogeno, che per questa tecnologia è comunque una quantità importante, forse la più grande che verrà realizzata in Europa con questa metodologia. L'impianto dimostratore sarà collocato presso i laboratori di una società francese, Engie, che si occupa diciamo di fornitura energetica. Le polveri saranno prodotte da un'importante azienda tedesca, si chiama GKN. I serbatoi, sia di un tipo che dell'altro, verranno realizzati da un paio di piccole e medie aziende, una italiana e una tedesca, e il tutto sarà supportato da un gruppo di laboratori che sostengono, diciamo, un po' la parte più di ricerca e di innovazione di questo progetto. E va bene, allora grazie professor Baricco, e in bocca al lupo. Bene, grazie a voi e a tutti gli ascoltatori. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani sera, buona serata a tutti voi.